Europa 24. Ben ritrovati dalla redazione da Valeria De Rosa. In apertura le ultime notizie che arrivano dalla Grecia: è prevista per domani la seconda votazione per il Presidente della Repubblica. Oggi il Premier Samaras ha offerto un compromesso per evitare, in caso di mancata elezione alla terza votazione, le elezioni anticipate a fine gennaio. Votate Dimas, ha chiesto il Presidente, aprendo a un rimpasto di governo. Poi, dopo l'accordo con la Troica, urne anticipate a fine 2015. Resta accesa la discussione in Europa in merito alle sanzioni inflitte alla Russia. La posizione di Bruxelles è quella di non retrocedere fino a che Mosca non ammorbidirà le proprie posizioni sull'Ucraina. Ma il primo ministro austriaco, Faymann, ha ammonito l'Unione. Il collasso dell'economia russa non fa bene a nessuno. E si avvicina alla chiusura il semestre italiano di presidenza dell'Unione, terminati i lavori del Parlamento europeo, che, lo ricordiamo, si è riunito la scorsa settimana in plenaria. Alcuni capitoli aperti per l'Italia. Il 2 dicembre scorso la Corte europea di giustizia ci ha inflitto una multa di 40 milioni di euro per il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e delle discariche, a cui si aggiungeranno penalità fino a un massimo di 43 milioni per ogni semestre che passerà dalla sanzione fino alla messa in regola delle 218 discariche illegali presenti sul territorio italiano. Il ministro dell'Ambiente Galletti, riferendo in commissione alla Camera, ha affermato che la situazione è cambiata, che negli anni l'Italia si è messa in regola e che nella legge di stabilità è stato previsto un fondo per bonificare le discariche illegali. Ho già sollecitato, per il tramite della rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea, l'avvio di un confronto con la Commissione per concordare le modalità di esecuzione della sentenza. Inoltre, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee del mio Dicastero, in collaborazione con le regioni interessate, sta predisponendo un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività di bonifica per i siti oggetto di contestazione. Altro capitolo che di fatto resta aperto è quello sui precari della scuola. A fine novembre ancora la Corte di Giustizia europea ha accolto il ricorso contro il rinnovo sistematico dei contratti a tempo determinato e ha stabilito che dopo 3 supplenze annuali un docente deve essere assunto. Il governo italiano aveva già previsto la stabilizzazione di 150.000 precari con la buona scuola. I sindacati però sono pronti a presentare altri ricorsi. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF, Associazione Nazionale Professionale. La sentenza della Corte europea ha sancito un principio chiaro: anche nella scuola, oltre che nel pubblico impiego, si applica la normativa comunitaria. La normativa comunitaria del 1999, la direttiva 70, che è stata recepita nel nostro ordinamento e purtroppo però non è mai stata applicata. Anzi, il legislatore nel 2011, dopo i primi ricorsi positivi che i precari vincevano nei tribunali ottenendo risarcimenti danni fino a 30.000 euro, alla fine il Parlamento era intervenuto nel 2011 dicendo che non si doveva applicare nella scuola la normativa sui contratti a termine sancita in Europa. La Cassazione addirittura l'anno successivo aveva giustificato appunto un intervento legislativo e finalmente la Corte europea, la Corte di Lussemburgo, si è espressa sul tema dopo che un giudice, il giudice di Napoli Coppola, aveva sollevato la questione, e anche la Corte Costituzionale aveva chiesto ai giudici europei di chiarire se la normativa italiana era compatibile. I giudici hanno detto di no. Quindi da ora si apre uno scenario che vede interessate migliaia e migliaia di persone che possono rivendicare il diritto al risarcimento o comunque alla stabilizzazione. Ci sono situazioni simili in Europa? In effetti non è stata solo l'Italia a adottare questa normativa. Abbiamo diverse sentenze europee, la sentenza Angelidaki per la Grecia, Kukuk per la Germania, Alonso per la Spagna. Questo vuol dire che i diversi stati hanno cercato pure loro, per ragioni anche di finanza pubblica, di conti, di sfruttare il precariato. Però ogni qualvolta la Corte europea ha dato loro torto. L'accoglimento di questo ricorso esaudisce tutte le vostre richieste e rivendicazioni? No, anzi, questo accoglimento di questo ricorso dimostra che lo Stato italiano negli ultimi 15 anni è stato inadempiente rispetto alla normativa comunitaria. Quindi più di 300.000 persone sono stati messi in ruolo, colleghi, altri 150.000 saranno messi in ruolo, ma tutti loro possono chiedere il relativo risarcimento proprio per il mancato adeguamento alla normativa comunitaria. Inoltre comunque lo Stato ancora ad oggi ai precari non gli paga il vecchio scatto di anzianità. Quindi sono pronti nuovi ricorsi? Sono pronti nuovi ricorsi non soltanto per la scuola ma anche per tutto il pubblico impiego, perché quella sentenza tra le righe si legge chiaramente, c'è un punto preciso dove dice che la normativa comunitaria riguarda tutto il pubblico impiego e quindi anche la scuola. Ed è tutto per questo appuntamento con Europa 24, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.